Buonasera a tutte. Non ho dimenticato i maschietti, ma oggi, essendo il mercoledì successivo all'8 marzo, dedichiamo questa trasmissione alle donne. E lo vogliamo fare non ricordando la storia del perché si festeggia l'8 marzo, non ricordando tutte le cose che dovreste sapere, se non le sapete sappiatele o sapevatele, ma lo vogliamo festeggiare un po' a modo nostro, leggendo qualcosa. E dopo anni e anni di lotte femministe, lotte che continuano ancora adesso e di cui ce n'è tanto bisogno, perché non leggere il Galateo per le donne, cioè ciò che per il Galateo le donne dovrebbero fare per essere considerate delle signorine o signore. Questi sono consigli che ho trovato da varie pagine internet, che non citeremo per non far pubblicità, ma sono davvero interessanti, e consiglio a tutte le donne che ci stanno ascoltando di seguire questi consigli. Probabilmente vi aiuterà a trovare marito. Non inviate mai messaggi dopo un incontro romantico. Se l'incontro è stato un successo, tutti i messaggi possibili sono stati già espressi personalmente. L'ausilio virtuale, tenetelo per il giorno dopo. L'uomo non deve mai portare la borsa della donna, o la donna il borsello del marito. Nel caso in cui lo si utilizzi, si consiglia di cambiare marito. Che simpaticoni. Per strada l'uomo deve sempre camminare a sinistra della donna, per assicurarle la giusta protezione. Altrimenti, che serve un uomo se non per proteggere una donna? L'uomo non deve mai toccare una donna durante una conversazione, a meno che non la si debba aiutare a salire o scendere dall'auto, oppure ad attraversare la strada. Un uomo non dovrebbe fumare davanti a una donna, e men che meno una donna dovrebbe fumare. Una donna non dovrebbe togliere il cappello o i guanti, sempre l'abitudine al paesello. Una donna non dovrebbe togliere il cappello o i guanti quando entra in un locale. Le uniche cose da togliere sono i berretti ed eventualmente le manopole di pelo o di lana, che spiegatemi cosa sono. In auto il posto più prestigioso è quello dietro. E ricordatevi che la galanteria dice che sia sempre l'uomo ad aprire la portiera alla donna. Non mettere mai la borsetta sulle ginocchia o sulla sedia, solamente le pochette e le clutch, che sono le clutch, possono essere messe sulla tavola. Le borsette più voluminose devono essere appese alla sedia. Il numero massimo di accessori consentiti a una signora è 13. Quindi non esagerate con i monili e ricordatevi che un bracciale può essere portato anche sopra i guanti, ma non un anello. rieccoci nuovamente insieme. E ricordo a chi si fosse collegato solo adesso che uno ha sbagliato a farlo e due che oggi, in onore della festa della donna, stiamo leggendo le regole del Galateo per delle perfette signorine. E adesso leggiamo regole di Galateo per le donne in carriera. Il termine donna in carriera fino a qualche anno fa aveva un'accezione negativa, poiché si riferiva ad una donna a rivista, senza scrupoli, che metteva il lavoro davanti alla famiglia. L'emancipazione dei tempi moderni ha finalmente cancellato questa accezione negativa ed oggi la donna in carriera può essere contemporaneamente una mamma, una moglie ed una manager di successo. Ovviamente mamma e moglie è importante. Se vuoi considerarti una donna in carriera completa a 360 gradi, oltre a chiudere trattative brillantemente e aumentare i volumi d'affari della tua società, devi seguire determinate regole di Galateo. Mostrare garbo e gentilezza, ad esempio, è un ottimo metodo per conquistare il rispetto e la stima dei tuoi colleghi. In un recente articolo abbiamo analizzato le regole per un caffè elegante in ufficio. Adesso scopriamo quali sono le regole di Galateo e di comportamenti virtuosi da adottare sul posto di lavoro. Un primo aspetto da analizzare è l'outfit. Poiché generalmente l'impatto iniziale è quello che conta e l'abbigliamento è il primo biglietto da visita. Opta per un look sobrio utilizzando preferibilmente un profumo discreto e rassicurante. Puoi curare trucco e manicure purché non siano eccessivamente bizzarri o eccentrici. Per scegliere il tuo outfit, valuta il dress code del luogo di lavoro, dando magari un tocco personale femminile, ma non eccessivamente sensuale. Da mettere al bando scollature vertiginose, gonne troppo corte o pantaloni eccessivamente attillati. Non vorrai che i tuoi colleghi pensino che una tua eventuale promozione dipenda da un décolleté troppo generoso. Scegli un colore non troppo vistoso ed elegante, come un blu, un nero o un grigio. I tacchi a spillo non sono indicati, ma puoi far emergere la tua femminilità con tacchi grossi ed un accessorio elegante che dia un tocco di originalità e di personalità. No a pettegolezzi e telefonate personali. Un pessimo vizio made in Italy è quello di spettacolare con le altre colleghe o, peggio ancora, effettuare telefonate private durante l'orario lavorativo. Le regole di Galateo della donna in carriera impongono di lavorare durante le ore lavorative per le quali viene pagata. Naturalmente puoi concederti qualche pausa durante la giornata, purché sia breve e finalizzata a ricaricare le energie. Rispetta il luogo di lavoro e i tuoi colleghi. Il luogo di lavoro va rispettato perché appartiene a te, ma anche agli altri colleghi. Mai lasciare in disordine il PC o scrivanie condivise e non sparpagliare in giro carte, cartacce o fazzoletti. Lo faresti a casa tua? Oltre al luogo di lavoro, naturalmente, devi rispettare anche i tuoi colleghi. Da un punto di vista professionale e privato, significa che devi mostrarti sempre cordiale, comprensiva e cortese, dimostrando così una grande classe. Un gesto umile e trasparente ti consentirà di ottenere rispetto e stima molto più di un gesto altezzoso e di superiorità. Questo naturalmente non significa accettare tutto passivamente ed abbassare sempre e comunque la testa, ma affrontare un dibattito con toni pacati e concilianti sicuramente permette di avere un confronto più civile con le altre persone. Ascolta le opinioni degli altri e non metterti subito sulla difensiva se viene criticata. Cerca di cogliere gli aspetti costruttivi delle critiche, così da migliorare il tuo comportamento e dimostrarti aperta al dialogo. Una battuta sdrammatizzante e un sorriso ammiccante spesso non sono molto meglio di un litigio furioso e poco costruttivo. Come gestire i contrasti? A parole tutto sembra facile, ma poi nella realtà dei fatti gestire un contrasto lavorativo con calma e sangue freddo è una piccola impresa. Molto spesso un litigio nasconde qualche altro motivo sotterraneo, quindi per capire esattamente cosa disturba una tua collega, invitala a prendere un caffè fuori dall'ufficio per affrontare in maniera matura il problema. In questo modo ti risulterà più facile individuare il reale motivo dello scontro e dopo aver risolto potrà tornare ad una convivenza pacifica o quantomeno civile. E rieccoci nuovamente insieme in questa particolare puntata dedicata a tutte le donne. Donne angeli del focolare, donne amanti, donne madri, donne figlie, donne sorelle. Tutte quelle donne che rispettano le regole del Galateo. Tutte quelle donne che in barba a questo femminismo un po' becero, un po' antico, rivendicano il loro essere un gradino sotto all'uomo. E per fare questo, nel 2021, navigando su internet, e non in un libro del Medioevo, non in un libro che, tra l'altro, parentesi, il Medioevo non è così brutto come il Rinascimento, ma questa è un'altra storia. Navigando su internet, digitando su Google Galateo per donne, quello che ho fatto oggi per questa puntata, troverete queste fantastiche, questi fantastici consigli su come essere una vera donna nel 2021. E adesso leggiamo il Galateo della donna moderna, 10 consigli di stile in rosa per tutte le età, pillole di bon ton per le donne del terzo millennio. La festa della donna è una data simbolo, ma non perché ci permette di trascorrere una serata lasciando a casa buon gusto e buon senso, ma perché ci ricorda quanto è grande la forza e la determinazione delle donne, grazie all'emancipazione che abbiamo raggiunto dopo anni di lotte e sacrifici. Quindi, secondo questo sito, l'emancipazione è stata raggiunta, quindi non lamentatevi più. Proprio per questo, oggi dedico le mie pillole di Galateo all'essere donna nella sua accezione più vera, raccontandovi come il bon ton possa essere materia viva e attuale anche per la donna del XXI secolo. Affermare la propria emancipazione non significa rinunciare alla propria femminilità, arrogandosi il diritto di comportarsi da uomini. La vera emancipazione, a mio parere, è avere piena coscienza della propria femminilità e non viverla come un handicap o come qualcosa da combattere ad ogni costo, ma, al contrario, liberarsi dai pregiudizi, come sesso debole, senza rinnegare se stesse. Vedo molte donne avere una vera avversione verso il rosa, verso i sogni da principessa, verso il coltivare aspettative forse un po' troppo romantiche per i giorni d'oggi. Le principesse, quelle delle fiabe, tanto amate da bambine, non si limitano mai a farsi salvare da un principe. Basta solo guardare le loro storie con occhi da adulti. Ognuna di loro lotta per qualcosa e lo fa con determinazione e caparbietà, ma senza mai perdere di vista quelle virtù, come l'eleganza, la gentilezza, la bontà d'animo che dovrebbero contraddistinguere ogni donna. E allora, a mio parere, questa è la chiave per essere una donna a 360 gradi, riuscire a far convivere, vivere l'animo determinato e volitivo con quello dolce e gentile, senza che l'uno prevalga sull'altro e senza che nessuno si permetta di giudicarci per questo. Poi nel mezzo ci sono tutte le sfumature che la vita ci regala e ci rendono diverse l'une dall'altra. Mai essere volgari. Il turpiluocchio e la volgarità in genere non si adattano a nessuno, ma soprattutto a una donna. Chi crede che il ricorso a tutto ciò possa conferirgli un'immagine da duro, sbaglia in pieno. Al massimo si può risultare rozze e maleducate. Essere sempre ben vestite. L'abito fa il monaco, sempre. Una persona vestita in modo coerente al contesto in cui si trova trasmette serietà ed affidabilità. Ciò non significa puntare tutto sulle solidità, ma rendersi conto che la prima impressione che diamo è il nostro biglietto da visita e come tale influenza i rapporti che creiamo con gli altri. Essere sempre dolce e gentile. La cortesia ripaga più di ogni cosa e non si creda che essere gentili significa essere soggetti a soverchierie perché creduti ingenui. Con la dolcezza è possibile raggiungere vette ben più alte che con machiavelliche strategie, perché una goccia di miele richiama a sé più mosche di un'intera botte di aceto. Mai mischiare lavoro e sentimenti. Romanticismo e professionalità non vanno mai d'accordo. Ma se è per questo, nemmeno passione e professionalità. Fuori dal luogo di lavoro, il mondo è pieno di partner da conquistare. Lì pensiamo solo alla nostra carriera e ad intrattenere rapporti cordiali, ma mai troppo intimi. Mai perdere il controllo di sé. Una donna che perde il controllo di sé è, a mio parere, una donna che non si rispetta. Ubriacarsi, lasciarsi andare a patetiche scenate non sono cose che fanno per una donna degna di questo nome. Ciò non significa non potersi concedere il piacere di un bicchierino o non poter vivere le proprie emozioni. Significa farlo con misura e con criterio, ricordandosi che mai nulla deve intaccare la nostra integrità. Mai essere equivoche. Essere ambigue porta non pochi problemi, incomprensioni, malumori, inutili gelosie. Nella vita, essere chiari e coerenti paga sempre. Non è necessario svelarsi completamente agli altri, ma è fondamentale mantenere sempre un atteggiamento trasparente, anche quando si vuole lasciare intorno a sé un alone di mistero. Avere rispetto dei partner e degli ex. Il rispetto degli altri è uno dei principi base delle buone maniere, soprattutto quando si parla di persone con cui si hanno o si hanno avuto dei legami sentimentali. Far volutamente ingelosire a tutti i costi l'altro, deriderlo o peggio ancora tradirne la fiducia sono tutti atteggiamenti deprecabili che di certo non si confanno ad una vera donna, come d'altro canto nemmeno ad un vero uomo. Evitare le chiacchiere da bar, i pettegolezzi, se fatti con malignità o a sfondo sessuale, non sono certo una cosa da signora. Non parlo delle chiacchiere tra amiche, quelle in cui banalmente si mischia qualche indiscrezione a qualche confidenza, ma quelle fatte con il puro scopo di screditare qualcuno o di farsi belle agli occhi degli altri. Prendersi cura di sé. Il nostro corpo è il nostro tempio ed una donna di carattere sa che prima di ogni cosa deve amare se stessa se vuole apparire al meglio agli occhi degli altri. Non si parla di vanità, ma di consapevolezza del proprio essere, che va curato e coccolato in tutto e per tutto. Uno dei grandi traguardi che dovremmo raggiungere prima o poi, noi donne, sarà quello di non fare più a botte con il nostro aspetto estetico, mettendoci in pace l'anima e capendo finalmente che una donna può essere insieme bella dentro e fuori. E dopo queste fantastiche regole che vi consiglio di stampare, vi consiglio di riascoltare questo podcast per giorni e giorni e ricordarvi che essere donna nel 2021 significa questo. Vi salutiamo, vi rimandiamo a un'altra puntata di Gente che legge cose e a un'altra giornata con Radio Godzilla. E vi ricordiamo che se volete leggere altre, se volete che vi legga altri consigli su come comportarsi in questo fantastico periodo storico, in questo futuro che è arrivato, basta chiamare come sempre lo 06 23 23 23 23 e prenotare la vostra lettura per la prossima puntata. Con questo vi saluto, vi mando un caloroso abbraccio e vi aspetto alla prossima puntata.